Benvenuti a Luogo Comune, prima puntata per me, mi presento, sono Biso, insieme a me. Insieme a te Gippo, che ti staranno insieme a voi per la prossima ora, a presentare questa nuova trasmissione, il cui titolo appunto Biso è Luogo Comune. Perché si chiama Luogo Comune? Luogo Comune, in ogni puntata noi andremo ad analizzare un luogo comune, proprio come dice il titolo, cercando in maniera più o meno simpatica e più o meno veritiera di andare a scoprire se il luogo comune ha atto di esistere. Oh, per questa sera quindi cominciamo con questo primo luogo comune, partendo insomma dal luogo comune forse che in Italia è per eccellenza il luogo comune. Luogo comune di eccellenza che riguarda il calcio, il luogo comune che andiamo ad analizzare. Quindi una volta il calcio era più genuino, oggi con tutti questi miliardi... Puntini, pare proprio che non sia così. Oh, questo luogo comune innanzitutto si compone di due frasi. Una volta il calcio era più genuino, virgola, oggi con tutti questi miliardi. In realtà è un luogo comune che spara due luoghi comuni. Spara due luoghi comuni perché si parla di com'era il calcio genuino una volta e di come di conseguenza ora non l'è più, nonché c'è la causa, i miliardi, i soldi. Infatti i soldi sono visti come... come potremmo dire? Il diavolo, il denaro è chiamato lo sterco del diavolo. Per questo che ha sporcato questa oasi felice, perché almeno il luogo comune questo mi fa capire, che una volta era un'oasi, no? Felice, insomma, di gioco, di divertimento, eccetera, eccetera. E l'ha sporcato e ha piegato le logiche di mercato. Ha trasformato totalmente. E adesso noi, tramite dei documenti, degli articoli di giornale, roba che ci siamo procurati, e anche le nostre personali opinioni, le nostre ovviamente personali opinioni, andremo a vedere quanto è vero o meno questo luogo comune. Esatto. Innanzitutto te Gippo, dici un po' te se tu il calcio lo segui. Allora, io il calcio lo seguo, sono schierato perché sono tifoso e insomma di una squadra che tra l'altro è impegnata anche adesso, insomma. Ho sentito qui fuori la finestra. Diciamo la verità, che per cominciare